Eccoci qui, buonasera a tutti, ciao a tutti. Buonasera, buonasera. Eccoci, fantastica serata oggi. È una luna fantastica. Come sei romantico. sarà che ne so, la strana energia della 17ª puntata del rovescio della medaglia, sempre qui su Radio Wombat. Ancora qui, ancora noi, da Prog 5 quarti e Prog 1, irriducibili, intramontabili, irresistibili, insopportabili. Dal nostro studio, nella nostra regia londinese, come vi abbiamo detto l'altra volta, perché ovviamente abbiamo iniziato a occuparci di quello che è la scena prog inglese degli anni 70. Allora, per i più attenti e per i più, diciamo, per i fan, quelli più accaniti, più fan, abbiamo aperto l'introduzione con gli Osanna. Il pezzo era Introduzione, dell'album L'Uomo del 1971, che abbiamo già avuto modo di presentare quando si è approfondito la progressive italiana. E vi sembrerà un po' così, dici, fate la prog inglese e mandate la sigla di un gruppo italiano, invece no, perché dopo scopriremo per quale motivo abbiamo fatto questo, scelto questo brano di introduzione, diciamo, qual è l'anello di congiunzione. Congiunzione. E oggi sarà puntata breve a livello di presentazione di gruppi, però presenteremo diversa roba. E comunque oggi diciamo presenteremo tre gruppi, vero, Prog 5 quarti? Sì, è una, diciamo, una puntata quasi monografica, perché comunque soltanto tre gruppi abbastanza approfonditi. Sì. No, li vogliamo dire subito quali sono questi gruppi? No, perché io non lo direi, perché magari chi è all'ascolto magari si sa bene che le 7 o le 19, che dir si voglia, è un orario critico, quindi magari scoprono la scaletta e no, sì, è buona, vai, vado al bar, sì, vado a fare l'aperitivo, che è meglio. Non diciamo niente. Teniamocela. Ci siamo dimenticati la settimana scorsa, quasi fortunatamente, che siamo andati in onda per San Valentino e non abbiamo parlato di amore. È vero. Sarà stato una cosa inconscia oppure ci siamo proprio dimenticati che giorno? No, cioè ora riesco a giustificare le avance che mi facevi in regia, che io mi rifiutavo, e ora ho capito perché. Credo. C'era una strana energia. Che Prog 5 quarti è da capire, è abbastanza timido, lui lancia dei segnali e non sempre riesco a codificare, quindi... Vabbè, però, allora, buon San Valentino passato a tutti. No, ma non volevo dire questo. No, ero quasi contento che non si fosse parlato di San Valentino. Magari io mi preoccuperei più dell'8 marzo, via, se mi annunzo ora. Sì, almeno, ma ne riparleremo in seguito. Almeno così le compagne non ci dicono, vi siete dimenticati. No, poi c'è una grande mobilitazione nazionale per l'8 marzo, comunque vi terremo aggiornati. Ok, entriamo nel cuore della 17ª puntata del rovescio della medaglia. Dai. Okay. Fantastico, dai, mi piace. Allora, il primo gruppo che apriamo sono i Family. I Family praticamente si formano nel 67 e diciamo hanno fatto, mi sa, 7 album fino al 1973. E in questo gruppo ci hanno un po', diciamo, ci sono passati un po' di personaggi che poi sono stati consegnati alla storia della musica prog e non, tipo, giusto per menzionarne qualcuno, John Wetton, che poi andò a suonare con i King Crimson. E Rick Gregg, che era l'ex Traffic, che si unirà all'ex Traffic Steve Winwood, e quindi nulla, ci sono passati un po' di nomi che poi hanno in qualche modo si sono fatti evidenziare in altri gruppi. E Come abbiamo detto, si formano nel 67 e il primo album che andiamo a presentare è del 1968, che si chiama Music in a Doll's House. Potete anche notare come siamo un po' indietreggiati con gli anni, vero Prog 12? Cioè, rispetto sì, al prog in generale, al prog italiano, siamo un po' in quel periodo che si può definire il proto prog. Il tardo beat, un incontro tra tardo beat e proto prog. Che a San Valentino si incontrarono per caso il proto beat e il proto prog, e quindi è nato il prog. Il proghino, e poi dopo è cresciuto. Sì, come prosecchino, insomma, birrino, cicchino. Ok, allora, una curiosità molto molto curiosa, interessante, del primo album, che come ripetiamo si chiama Music in a Doll's House, che è l'album di debutto dei Family, esce nel 68 e praticamente dopo l'uscita di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che immaginate, cioè, sapete tutti di chi era quest'album, Prog 5 quarti? Beatles. Fantastico. Vabbè, almeno questo. Vabbè, non lo so. Io avrei detto gli Iron Maiden. Ok. John Lennon aveva proposto al gruppo di chiamare l'album A Doll's House, ossia Casa di Bambola, che era un omaggio a un drammaturgo norvegese, che non so minimamente chi sia, però fa figo menzionarlo, Henrik Ibsen. Dai, Ibsen. Non sono mai stato drammaturgo io. No, ma nemmeno io, però vabbè, io conosco solo Casa di Bambola di Ibsen, però comunque ci hanno fatto anche dei film, mi sembra, comunque c'è una storia cinematografica nonché teatrale dietro a questo. La drammaturgia non l'ho mai seguita più di tanto. Però comunque, tanto chi ci ascolta più o meno saprà di Ibsen. Okay. Non è compito nostro occuparcene. E praticamente, diciamo, quindi, che succede? Che i Family anticiparono l'idea di chiamare quest'album, l'anticiparono ai Beatles, una carenza di fantasia pure, via. E praticamente poi i Beatles, dopo che in qualche modo non era il caso di, tra l'altro negli anni, cioè quindi nelle pubblicazioni abbastanza vicine uno dall'altra, di chiamare lo stesso album, e da lì poi uscirà il famoso album dei Beatles con la copertina completamente bianca, che è l'eponimo The Beatles, o meglio conosciuto come The White Album. Ok, e dopo questa curiosità che mi sembrava molto molto interessante raccontarla, di questo album andiamo a passare The Chase. Loro sono i Family, dal primo album di debutto, ossia che l'abbiamo, è Music in a Doll's House, The Chase. Oh, Ok, e mentre dal secondo album dei Family andiamo, che si chiama aspetta che ci guardo subito, Family Entertainment, che è uscito nel 69, e andiamo a presentare Summer 67, sempre i Family qui su Radio Wombat. Questa era Summer 67, sì, sì. Dei Family, del loro secondo album, sì, del loro secondo album, per l'appunto Family Entertainment, no, sì, Family Entertainment. E avete anche notato, come mi faceva giustamente notare il nostro fantastico critico Prog 5 quarti, che è il primo pezzo dell'album di debutto, ossia il pezzo si chiamava The Chase che abbiamo presentato, la voce ricorda un po', ricorda abbastanza, no? Prog 5 quarti. Quella di Peter Gabriel, nel periodo di Genesis, no? Sì, no, infatti. Comunque l'album dei Family viene più o meno un anno prima dell'album di debutto di Genesis. E comunque sì, erano contemporanee, quindi magari c'erano anche altre fonti di ispirazione, no? Il secondo punto a sfavore dei Genesis, perché il primo, lo diremo a suo tempo, siamo già a due, cioè non si sa se stiamo smerdando i Genesis o promuovendoli e suonando, non si sa ancora, vabbè. No, ora no. Diciamo un po' questo love and hate. Vabbè. Sì, perché anche perché ci hanno avuto una vita, diciamo, di successi incredibili per 30 anni, e, diciamo, gli album da salvare secondo me sono veramente pochi. Ok, allora, come avete anche notato, saranno passati sì e no 4 minuti dall'inizio della trasmissione, si è suonato già 18 pezzi, no, via. Avete notato anche l'inusualità di questo gruppo di presentare pezzi lunghissimi, che come da tradizione prog, e come vi abbiamo ampiamente fracassato nelle precedenti puntate, però per non smentirci andiamo a presentare subito dall'album Anyway del 1970, andiamo a presentare Good News, Bad News, e qua ritorna la nostra tradizione prog con un bel pezzo di 8 minuti. Vai, dai. Sempre i Family. throats before you begin. Thank you. Ok, e andiamo a presentare l'ultimo pezzo sempre dei Family, Take Your Partners si chiama, dall'album Fearless, che è uscito nel 71. E con questo chiudiamo anche la presentazione dei Family. È un album molto carino a livello estetico, perché uscì praticamente, c'era questa copertina, lo sfondo bianco e dei quadratini tipo fototessera, diciamo, dei componenti del gruppo messi su, come si può dire, proprio 5 quarti, aiutami. Fatto un po' a scaletta, sì. A piramide scalettata. Sì, mi piace, continuiamo a sfornare. Minchiate. Ok, allora, praticamente quest'album apribile, c'era la parte di apertura, era appunto zigzagata a scaletta, che così, diciamo, era fatta sul contorno di queste fototessere, diciamo, dei componenti del gruppo, che l'ho trovata molto simpatica come copertina. Ti sei beccato anche un applauso. Un applauso, è vero, grazie. Ok, allora, chiudiamo con i Family, ripeto ancora, Take Your Partners, dall'album Fearless del 71, loro sono i Family. Thank you. Ok, abbiamo chiuso con i Family e Prog 5 quarti. Ci sei? Siamo, sì, eccomi. Allora, siamo arrivati alla nostra rubrica che è l'agenda della settimana. Allora, cominciamo subito con dare qualche dato tecnico informativo. Ricordiamo sempre che il sito è wombat.noblogs.org, twitter.com/radiowombatfee, facebook.com/radio-wombat-firenze e poi se volete scriverci a postawombat@insiberia.net. E vi ricordiamo che sta scadendo il nostro bando per creare il logo di Radio Wombat, che potete mandare, inviare alla nostra casella di posta un file per il formato si richiede un TIFF o che è un po' più leggero forse del PDF. Comunque ci sono tutte le modalità di creazione di questo, tutte le regole del bando sul nostro sito wombat.noblogs.org, e in prima pagina c'è il bando di concorso per il logo della radio. Potete leggere tutte le informazioni lì e mandare al nostro sito di posta, al nostro indirizzo di posta. Quindi andiamo con gli appuntamenti per la settimana. Allora, apriamo con venerdì 24 febbraio alla Polveriera, dalle ore 18, quindi sarà un aperitivo fino credo alla mezzanotte, come sempre, no? Proprio 5 quarti. Sì. Sì, penso di sì. E ci sarà un aperitivo, da beggiante con Disco Rebel, Imi Roots, Romola Sound System. E questo venerdì 24 alla Polveriera. Poi sempre venerdì 24 c'è Rock Soul Night al Camilo Cienfuegos di Campi Bisenzio con Mattia Caroli e Fiori del Male e gli Electric Souls. Poi ancora, e con questo chiudiamo con gli eventi della settimana, ricordiamo a tutti che sabato 25 febbraio al CSA Next Emerson ci sarà Pure Groove Dynamite Conference, ossia una serata chiamasi conference, in puro stile conference, con tre sound system e che si alterneranno ai controlli. E ci sarà allora Soul Rockers, Romola Sound System e La Svolta Sound System, questo sabato 25 febbraio al CSA Next Emerson. Forse avrete anche l'onore e la fortuna di incontrare qualche DJ della radio che vagherà per l'Emerson in questa bellissima serata. Ok, allora abbiamo anche gli appunti della settimana, li abbiamo anche fatti, abbiamo dato i dati tecnici della nostra fantastica radio. Possiamo passare a presentare il secondo gruppo della nostra scaletta di oggi, vero? Prog 5 quarti. Verissimo, e a grande sorpresa immaginerete il prossimo gruppo sono i Genesis. Che ne abbiamo parlato, abbiamo dato qualche anticipazione. E che dire, i Genesis sono uno dei gruppi di quel periodo e non solo, più famosi nel mondo, e hanno avuto un grandissimo successo in Italia già da subito con i primi album, cosa che invece in Inghilterra erano stati accolti un po' con più freddezza rispetto al resto dell'Europa. E iniziarono subito le loro tournée in Italia, perché comunque vendevano già un sacco di dischi già da primi anni, e mi ricollego al nostro, alla nostra introduzione musicale, alla nostra sigla degli Osanna, perché ta-na-na-na. Come abbiamo detto, posso fare il, visto che fai, non abbiamo il sottofondo musicale, fai il rumorista, sì. Come dicemmo quando vennero presentati gli Osanna, che gli Osanna in Italia aprirono un concerto dei Genesis e Peter Gabriel fu colpito, si dice che fu colpito da questo impatto scenico e scenografico degli Osanna e nonché dei loro vestiti, dei loro travestimenti, no? Questi costumi molto sfarzosi, queste delle vesti colorate, sì, anche truccati in volto, truccati, sì, e si dice che comunque anche in seguito Peter Gabriel abbia usato, no, questi espedienti, quindi la faccia truccata, queste vesti lunghe tutte colorate, e si dice che comunque abbia preso ispirazione lui dagli Osanna e non il contrario. Questo comunque da verificare, nessuno mai potrà verificare questa cosa, ma diciamo, che prog 5 quarti nostalgico, perché voi prima siamo andati a guardare nell'archivio del mio tablet e quella puntata che presentavamo gli Osanna la preparò prog 5 quarti, quindi lui appena può si prende le sue piccole rivincite e... Comunque, la fortuna, tutta la carriera dei Genesis viene divisa generalmente in due tappe, il periodo di Peter Gabriel e il periodo post Peter Gabriel. Noi ci fermeremo al periodo con Peter Gabriel alla voce e Phil Collins alla batteria, che secondo me è il periodo più interessante, la produzione più interessante, forse anche meno commerciale di quella appunto degli anni 80 e 90 e così via, perché comunque ancora non vorrei dire una stronzata, ma ancora suonano come Genesis, o forse sì, so che l'ultimo concerto in Italia è stato, mi sembra, nei primi anni 2000, quindi con un grandissimo successo di pubblico. Sì. Sì, mi sembra. Comunque, vabbè, andiamo avanti. Allora, il primo album è datato 1969. Ma non mi ricordo assolutamente come si chiama. Cioè, un attimo. Sì, sì, From Genesis. Non succede mai. Vabbè, comunque. Che sei sempre preparatissimo. Sì, è From Genesis to Revelation. Ecco. Un po' anche questi riferimenti biblici, un po' anche particolare, no? Sì, è anche questo un esempio di proto-prog, comunque degli albori del prog. Comunque, che questo saltiamo a piedi pari. Quando stava tramontando il tardo beat. Comunque, un album molto interessante, ma ancora non proprio con quelle sonorità che interessano a noi. Comunque, il primo album che presentiamo è Trespass, del 1970. E questo album ancora non c'è Phil Collins alla batteria, entrerà nell'album successivo del 1971. Comunque, e anche questo, come molti altri gruppi inglesi, un po' ispirato ovviamente a King Crimson, che erano in quel periodo, diciamo, la fonte di ispirazione sia musicale che di atmosfere di tanti gruppi di quel genere e non. Che erano della scena di? Della scena, no, i King Crimson no, della scena di Canterbury? No, i King Crimson no. No. Sì. No, non credo. No, no. Meno male che siamo in diretta, via, perché se era registrata avremmo già tagliato la puntata. No, ma va bene per questo. Comunque, come si è detto sempre dall'inizio, la nostra è una ricerca che facciamo insieme ai nostri ascoltatori. Quindi ci sta, noi diciamo, poniamo delle domande, non diamo delle risposte, ecco. Mettiamola così. Non riescono mai a beccarci per darci delle risposte. Comunque, tutto l'intero album è un po' ispirato a, secondo appunto le parole di Peter Gabriel, è ispirato a questa parte del subconscio inglese, che è un contrasto tra, diciamo, l'eleganza, l'eleganza, lo splendore dell'epoca vittoriana, in contrasto con poi la violenza, la repressione di quegli anni. Quindi atmosfere un po' dark, un po' cupe, e contrastate appunto da questo, dallo splendore dell'età vittoriana dell'Ottocento. Comunque, vi presentiamo da Trespass tre brani. Il primo è Looking for Someone, il secondo è White Mountain e l'ultimo è The Knife. Uno dei pezzi, diciamo, dei brani che sono diventati un classico dei Genesis, che hanno comunque riprodotto sempre dal vivo negli anni successivi, fino a poi la partenza dal gruppo di Peter Gabriel. Il da notare, White Mountain, che è ispirato ai romanzi di Jack London, quindi Zanna Bianca e Il richiamo della foresta, scusate, stavo andando. Torno al futuro. Sì. Comunque, è una nota particolare che White Mountain venne riproposto in Italia da Ornella Vanoni con una cover che si chiama Un gioco senza età. Immagino che ci canterai. Che ora vi canterò. Tutto il repertorio della Vanoni vi faccio dal vivo. Comunque, io andrei con il primo album, vi faremo... Possiamo dire ufficialmente che le mixeremo con classe ed eleganza. Sì, comunque tanto la... Quindi è una suite allora. È una suite. Torna alla fantastica suite. Una suite autoprodotta da Prog 1 con Looking for Something, White Mountain and The Knife, dall'album Trespass 1970 i Genesis, qui su Radio Wombat. Wombat fatta con l'eco. Sì. Looking for someone, I guess I'm doing that. Trying to find a memory in a dark room. Dirty man, you're looking like a Buddha. I know you well. Yeah, keep on a straight line. I don't believe I can. Trying to find a needle in a haystack. Chilly wind, you're piercing like a dagger. Sunlight through the trees to keep you warm in peaceful shades of green. Yet in the darkness of my mind, Damascus wasn't far behind. In a subway, I guess I'm losing time. There's a man looking at a magazine. You're such a fool. You're again. You feel the ashes from the fire that kept you warm. Its comfort disappears. But still the only friend I know will never tell me where I go. Oh, about to begin. Tell me that I'm a hero. Promise me all of your violent dreams. Light up your body with anger. Now, in this ugly world, it's time to destroy all this evil. Now, when I give a word, get ready to fight for your freedom. Now. For you know we are right. We must strike at the lies that are spread like disease to our minds. Soon we'll have power. Every soldier we rest and we spread out our kindness to all who are left now deserved. Some of you are going to die. Marshals are going to die. Kill all, must die with their children. Carry the heads to the palace of old. Hang them high, let the blood flow. Now, in this ugly world, break all the chains around us. Now, the crusade has begun. Give us the land and your heroes. Now! Stand up and fight, for you know we are right. We must strike at the lies that are spread like disease to all. We'll be right back. e questo era il brano The Knife, tratto dall'album Trespass The Genesis del 1970. E con questo passiamo all'altro album che vi presentiamo. Non vi presenteremo niente di Foxtrot, che è l'album su... no, sto dicendo un'altra cazzata. Questo è il terzo album, ma mi correggo da solo. Questo, il prossimo è in ordine cronologico il terzo album The Genesis del 1971, Nursery Crime. Da questo album presentiamo un solo pezzo che si chiama Musical Box. Interessante che poi riprende appunto dal tema di Musical Box, viene ripresa la copertina, che è una delle copertine più famose, sempre lo stesso, mi sembra lo stesso autore dell'album precedente, dove c'è una bambina con una mazza da croquet che sta giocando. Croquet. Non so che differenza c'è fra il croquet e il cricket, però questo è croquet. E questo brano che presentiamo, che si chiama Musical Box, quindi la traduzione inglese di Carry On, è una favola un po' vittoriana che affronta le classiche tematiche di amore, morte, in questo caso anche si parla di reincarnazione, di spiriti che si manifestano post mortem. E questa è la storia di una bambina che appunto, giocando a croquet, decapita il suo compagno di giochi, e una volta decapitato questo bambino gli ruba il suo carry-on, e mentre lo apre e suona questa musichina questa musical box, esce fuori lo spirito di questo ragazzino che è stato decapitato, e quindi entrano in ballo tutte le corrispondenze amorose e così via, quello che vi stavo dicendo prima. Questo album, nonostante la presentazione, anche mi sembra nelle note di copertina c'era una presentazione di Keith Emerson, nonostante questo, che allora suonava nei Nice, nonostante questo in Inghilterra, come dicevo nell'album precedente, fu accolto un po' con freddezza, mentre in Italia riscosse subito un grande successo. E il brano Musical Box, anche questo fu un classico riproposto in tutti i live fino al 1975, quando Peter Gabriel lasciò il gruppo. Comunque, andiamo ad ascoltare Musical Box dall'album Nursery Crime del 1971, i Genesis, al rovescio della medaglia, qui su Radio Wombat. Song. Here it comes again. just a little bit, just a little bit more time, time left to live out my life. We'll be right back. she's a lady, she's got time. Brush back your hair and let me get to know your face. She's a lady, she is mine. E con questo brano ci lasciamo alle spalle i Genesis, questa piccola panoramica che abbiamo fatto su... Invece non ci lasciamo alle spalle nessuno. Sei su Scherzi a Parte. Perché presentiamo l'ultimo album, il quinto album dei Genesis del 1973, che si chiama Selling England by the Pound, che tradotto un po' così, non proprio alla lettera, significa vendesi Inghilterra un tanto al chilo. E da questo album presentiamo un brano che si chiama Third for Fifth, che Firth of Fifth, io mi ero scritto for, non so perché. Firth of Fifth, ma non ci possiamo scegliere, non possiamo passare dei brani tipo... No, Firth of Fifth, sì, che è un gioco di parole un po' intraducibile in italiano, comunque fa riferimento all'estuario di un fiume in Scozia che si chiama Foft, qualcosa del genere, comunque un gioco di parole che possono capire solo gli scozzesi, secondo me. E di questo brano è molto interessante l'intro, molto, un brano molto tecnico, l'intro di pianoforte, e dopo, durante diciamo il brano, ci sono tre assolo molto importanti, di uno di flauto, pianoforte e chitarra. Questo è davvero l'ultimo brano dei Genesis, Firth of Fifth. Growth is removed by skill. Ok, era ora la, è realmente la fine dei Genesis, e ci siamo vissuti. Ok, allora andiamo a presentare quello che è l'ultimo gruppo di oggi, di questa puntata, che sono i Gentle Giant. I Gentle Giant praticamente si furono fondati da tre fratelli, i fratelli Schulman, che ricordano un po' come già nella precedente puntata furono ricordati gli Apoteosi, questo gruppo calabrese che fu fondato da tre fratelli che si collegava ai Caterpillar, ossia questo il gruppo Caterpillar che abbiamo presentato nella precedente puntata, che c'era alla voce c'era una donna, una ragazza, e lo stesso che li legava, li accomunava agli Apoteosi. E lo stesso, diciamo, leggendo un po' la biografia dei Gentle Giant, si ritorna di nuovo agli Apoteosi, che erano tre fratelli che fondarono il gruppo. O mi viene anche i Semiramis, che abbiamo presentato, dove c'erano i fratelli Zarrillo, di cui uno dei due è il più celebre, Michele Zarrillo, che ricordiamo anche in quella puntata che Prog 5 quarti si rifiutò di cantare un pezzo di Zarrillo. Ma lo facesti te, se non sbaglio, sì, cantando vero, una rosa blu, accennando a una rosa blu, un grande successo di pubblico, ormai è diventato un bootleg sì, per i collezionisti. Ok, allora i Gentle Giant praticamente hanno esattamente un decennio di carriera, che va dal 1970 al 1980, e diciamo in qualche modo sono proprio la formazione tipica prog nella sua definizione. Perché? Perché nel 70 escono con l'album eponimo Gentle Giant e finiscono nel 1980 con un concept album che si chiama Civilian. Però diciamo che quello che a noi più interessa e più che andremo a approfondire sono un po' i primi anni della carriera dei Gentle Giant, che è legata soprattutto agli album, all'album di debutto eponimo, e poi c'è Acquiring the Taste del 71, Three Friends del 72, che mi faceva notare Prog 5 quarti è un altro concept album, poi Octopus del 72, copertina fantastica, bellissima, con questo Octopus, questa piovra che esce dagli abissi, un album bellissimo, e che è un po' ritenuto, diciamo, come si può dire, aiutami con le parole, Prog 12, Octopus, un po', diciamo, uno degli album meglio riusciti o più, sì, rappresentativi, diciamo, più rappresentativi della progressive inglese. E poi in A Glass House del 73, e andiamo. diciamo, questo qua è stato questo un po', diciamo, gli anni che andremo ad approfondire e anche ad ascoltare, perché sono un po' la produzione dei Gentle Giant più legata alla progressive, molto sperimentali, con sfumature jazz, blues, che però via via si vanno spostando sempre più verso l'hard rock, anche perché poi ricordiamo che nel 74 si trasferirono negli Stati Uniti e in qualche modo si andarono sempre più allontanando dalle sonorità progressive. Infatti in ogni album ci sono sempre dei piccoli spunti su quello che un po' poi sarà le scelte future del gruppo verso l'hard rock. E allora dall'album eponimo andiamo a presentare Gentle Giant, che è uscito nel 70, sì, andiamo a presentare Funny Ways. Thank you. so much of a bore. But in my own funny ways I find I learn much more. I realize what you think from your eyes, but in your own funny ways I find I learn much more. To be so close from the start, but for all that I care, we could be miles apart. I understood that you never would understand the way of life I never could. Sempre dal primo album Gentle Giant del 70, questa è Giant. His hand, striding steps that will cover the land. He is coming, hear him coming. Are you ready for his being? Hear the giant, hear the giant, touch the giant, see the giant. Ok, il prossimo album che presentiamo è il secondo, Equaling the Taste del 71, e andiamo a presentare, di questo album presenteremo The House, The Street, The Room e Wretch. The House, The Street, The Room è un pezzo in cui si va a notare già un'accentuata vena hard rock, che come ho detto prima fu un po' poi le scelte future del gruppo. E possiamo semplicemente ascoltarlo, via. No, Prog 5 quarti. Ma sì, sì. Allora. Dovrebbe parlare da solo, comunque qualcosa ci dovrebbe dire più di noi, di sicuro. Ships rising up from the sea to the sky cries, hey, hey, yeah, hold on. Just one sorry scream and a desperate cry cries, hey, hey, yeah, hold on. Their lives pass before them before they die, hey, hey, yeah, hey, hey, hey, yeah, hey, hey, hey, hey, yeah. The sea yawns around like a boiling hell cry, hey, hey, yeah, hold on. And souls disappear with the toll of that bell cry. They are dragging them down, yeah, yeah, hold on. And sorrows and sins, they are lost as they drown, hey, yeah, hey, hey, yeah, hey, hey, yeah. The strange as they came, for their living was made from the deep, to their people in comfort and keep. People, the people and places there, never to be seen again, never to be loved, and their last embrace. And the kiss has a soul bitter taste. Torna ancora una volta l'ombra intrigante del concept album, che con molto affetto e volontà presenterà Prog 5 quarti. E eccoci qua, come ha detto Prog 1, il prossimo album è un concept album che si chiama Three Friends, del 1972, nonché il terzo album dei Gentle Giant. Allora, questo album ha una storia molto semplice che però può lasciare spazio, no, a tante interpretazioni e comunque trovare delle affinità anche nella vita comune, nella nostra storia. Comunque, per sintetizzare questo, è la storia di tre amici che, una volta raggiunta la maggiorità, che erano sempre stati insieme, si separano e prendono tre strade diverse. Uno diventa un impiegato, un altro un pittore un po' solitario, no? Un pittore un po' che si chiude in se stesso, e l'altro invece un classico capitalista, un affarista, che disprezza completamente le scelte degli altri due amici. Comunque, dopo varie vicissitudini, i tre amici ritornano insieme con un più o meno lieto fine. Comunque, il primo brano si chiama Working All Day, e verrà mixato con l'altro brano, che è la conclusione dell'album e comunque di questo concept, che si chiama Three Friends, dall'album appunto eponimo Three Friends del 1972, i Gentle Giant. Learning, the life is tough. Ok, benissimo. Abbiamo anche presentato il terzo album, Three Friends, questo concept album dei Gentle Giant, e il prossimo ed ultimo pezzo, sempre dei Gentle Giants, The Boys in the Band, che è tratto dall'LP che abbiamo ricordato prima nella presentazione iniziale del gruppo, ossia Octopus, che è lo diciamo subito, del 1972. E ci fermiamo qui, termina qui la nostra presentazione dei Gentle Giant, e a questo punto siamo anche ai saluti, Prog 5 quarti. Siamo ai saluti, perché vi lasciamo con questo pezzo che, come diceva Prog 1, è tratto da questo album tra i più rappresentativi della discografia dei Gentle Giant e anche della Progressive in generale. E con questo vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 7, qui su Radio Wombat. Ciao a tutti e buona serata.